sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili. Accendi un cero che l'amore muore. Sempre notte e giorno, sempre poco sonno, sempre case in fiamme, sempre gente che ti ascolta. Se ti guardi dentro, sei un uomo senza più una cura. Non hai capito che l'amore muore. Non hai capito che l'amore muore. Non hai capito che l'amore muore. Non hai capito che l'amore muore. Muore. Non hai capito che l'amore muore. Esserci tutto sommato è chiesto scusa poco. Hai fatto i conti simulando perdite. Hai fatto pace senza occhi lucidi, ma non hai capito che l'amore muore. Se ti guardi dentro, sei un uomo senza più una cura. Non hai capito che l'amore muore. Accendi un cero che l'amore muore. Non hai capito che l'amore muore. Non hai capito che l'amore muore. È questa l'avventura. Come stai? È tanto che ti scrivo da quest'angolo di questo paradiso detto Africa. Che ho ritrovato la mia anima, è qui che con mio padre parlo a Dio. Non hai capito che l'amore muore.